Il leone e l'asino a caccia, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Per celebrare il dì della sua festa, il biondo imperator della foresta fuori alla caccia andò. Non a caccia di merli e d'usignoli, ma di cervi, s'intende, di bei cinghiali e grassi caprioli. E l'asino invitò. All'asino una voce sì potente che a 10 miglia quasi la si sente, onde il leon pensò, poi che la bestia avea sì buona musica, di farsene suo pro. Copre il messer di lauro e d'altre erbette e di ragghiar coverto gli commette e l'asino ragghiò. Quella voce che subito risona e nell'aria terribile rintuona le bestie spaventò. Costoro che non sono abituate a sentir quella tromba che rimbomba dentro la selva fuggon spaventate e ad una, a seconda che tocca, dentro le zampe cascano e del leone in bocca. Allor superbo l'asino esclamò, «Se potesti adunar tanto bottino, ringraziami vicino». «È ver», rispose il re della foresta, «mandasti i raghi proprio della festa, anzi, soggiungerò, che avrei potuto spaventarmi anch'io, ma ti conosco e tema, grazie a Dio, degli asini non ho». Volea la bestia sciocca replicare, ma tanto non osò, conoscendo l'umor del suo compare. E fece bene, io penso, se al carattere suo si rassegnò che un asino spaccone è un controsenso. Fine della favola. Il leone e l'asino a caccia. Questa registrazione è di dominio pubblico.